Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Con l'elefante oggi parliamo del rinnovamento generazionale della politica e della sinistra. Detto così sembra un argomento da dire chiudete immediatamente la radio, ma non è proprio così. C'è un fenomeno che alligna, che si sta manifestando, che è stato captato da alcuni giornalisti, da alcune testate anche europee, e soprattutto è stato captato dal web, da questa famosa Facebook, che ancora non mi hanno spiegato bene che cosa sia, e da come si chiama, insomma, lì dalla YouTube. Cioè, è pieno di video che girano, i blogger sono tutti diciamo in fregola, c'è una specie di primavera politica del giovane che irrompe nel teatrino un po' spento del chiacchiericcio delle solite vecchie nomenclature e cambia un po' le carte in tavola. Il che può essere interessante per tutti. Il fenomeno si concentra nel Partito Democratico. Vi dico un titolo di El País, il grande giornale madrileno, spagnolo. Un sí Podemos en la izquierda italiana, che sarebbe a dire un yes we can nella sinistra italiana. Ed ecco il catenaccio. Un vibrante discorso de Deborah Serracchiani, dirigente locale de 30 de 8 años enamora a las desencantadas bases del Partito Democratico. Insomma, si sono accorti un po' dappertutto in Europa di quello che Curzio Maltese scriveva il 5 marzo all'inizio della sua inchiesta sui figli dell'Ulivo, ingenui ed europei, così li definiva, e cioè del fatto che, insomma, dappertutto c'è il rinnovamento, no? Una nuova generazione di trentenni e quarantenni si afferma, e la cosa importante è che con essa si affermano eventualmente delle idee, un metodo, un senso, un significato della politica, e questo è successo, diceva Maltese, nel Labour inglese, tra i socialisti spagnoli, tra i democratici americani, insomma. Un altro quarantenne di grido è ovviamente Barack Obama, accade ai socialdemocratici svedesi e tedeschi, ecco. Mentre il centrosinistra italiano, dopo ogni sconfitta, cito sempre Maltese, ha cambiato marchio e simboli conservando linguaggio e nomenclatura. E qui è Maltese che si riferisce a una vecchia battuta di Ezio Mauro, il direttore di Repubblica: Veltroni e D'Alema litigano da 20 anni e da 4 partiti, PC, PDS, DS e PD. E sempre la solita litigata Veltroni-D'Alema. Ora si dovrebbe cambiare registro. Io semplifico naturalmente un po', perché le vecchie nomenclature poi alla fine hanno anche svolto e svolgono un loro, diciamo, onesto mestieraccio. Fanno un loro onesto mestieraccio. Però effettivamente è curioso parlare con... insomma, dovrebbe indurre a curiosità parlare, sentire quelli che, insomma, avanzano un'ipoteca sul futuro politico di questo paese. E intanto vedremo poi cosa farà il PDL venerdì, sabato e domenica, come si disporrà questo nuovo partito. Intanto sul Partito Democratico, sulla sinistra, sull'opposizione. E il nome che ho appena citato, però diciamo con un accento castellano, spagnolo, citando il titolo del País, il primo nome che abbiamo al microfono, e con lei parleremo tra poco, è quello di Deborah Serracchiani, appunto la star del web. Il nome, diciamo, che si rincorre di brusio in brusio, di bocca in bocca, la persona che ha sabato scorso, parlando in un'assemblea del PD, detto cose nuove con un tono nuovo, ed è stata percepita da gigantesche ovazioni e da, appunto, grande curiosità come, diciamo, il campione di un fenomeno integralmente nuovo, il rinnovamento delle classi dirigenti. I giovani del PD, i trentenni, quarantenni del PD a confronto con i problemi di tutti i giorni della politica italiana e con la visione di che cosa è o dovrà essere questo paese. Puntata speciale dell'Elefante oggi su questo tema. Bene, 800 24 00 24. Parliamo intanto con Deborah Serracchiani. Niente politica fino al 2006, poi ha preso la tessera dei DS, è un avvocato del lavoro, ha 38 anni, vive e lavora a Udine, anche se di origine è romana. E appunto ha preso la parola a sorpresa, senza che neanche la cosa fosse particolarmente preordinata, perché ha saputo di dover andare a questa assemblea dei circoli del PD sabato scorso, ed è esploso un fenomeno, una specie di rincorsa mediatica, un successo tra applausi, curiosità, siti cliccati, video visti con golosità da molta gente. Intanto, signora Serracchiani, questo successo le sembra un normale prezzo da pagare, un pedaggio che si paga ovviamente alla necessità di fare politica, di affermare la propria immagine, le proprie idee, oppure le dà fastidio, le sembra che sia un fatto di moda? Non so, come reagisce al fatto di essere diventata una star politica? Buongiorno intanto a lei e chi ci sta ascoltando. No, sinceramente sono rimasta molto sorpresa, non posso dirle che fosse preventivato tutto questo successo nel modo più assoluto. Credo che molte persone si siano identificate in quello che stavo dicendo, tutto qui, insomma, credo che ci fosse bisogno di una faccia che dicesse certe cose. Io mi trovo al posto giusto nel momento giusto, evidentemente. Dunque, lei, tra le tante cose che ha detto, ne cito alcune. Per esempio, lei dice: non voglio essere accomunata a Renzi. Renzi è il presidente della provincia di Firenze che si è candidato a sindaco nelle primarie del Partito Democratico e ha stravinto contro, diciamo, i vecchi, tra virgolette. Tra l'altro, il fenomeno c'è, perché non solo Renzi, ma anche molti altri che si sono candidati nelle primarie provinciali in Toscana, eccetera, è stato lo stesso fenomeno. Partecipavano campioni, diciamo, della vecchia classe dirigente e hanno perso. E hanno sempre vinto i figli dell'Ulivo, quelli che si presentano come il futuro contro il passato, come il PD contro, diciamo, le radici e le origini da cui proviene, niente più partito comunista, tradizione politica legata, diciamo, al riformismo di sinistra, socialisti, ex democristiani. Noi non siamo ex, siamo una cosa nuova e vogliamo prendere in mano il Partito Democratico. Lei si ritrova, a parte il fatto che lei ha detto non voglio essere accomunata a Renzi, ognuno ha la sua sensibilità, il suo gusto, il suo modo di essere, di parlare, ma lei si ritrova in questo fenomeno generale o no? Beh, io mi ritrovo nell'essere democratica, cioè mi fa piacere che in questi giorni, sinceramente, tranne alcuni, sono veramente pochi quelli che mi chiedono da dove provenissi prima di sabato, cioè se provenissi da DS oppure dalla Margherita. Mi piacerebbe, insomma, che guardassero a me come a una democratica, appunto, e da lì, insomma, si può partire per un discorso nuovo e più semplice, secondo me. Lei mi è simpatica perché, lei forse non lo saprà, perché era insomma, è ormai già un'altra epoca, 11 anni fa, 12 anni fa, ma io mi presentai candidato a dispetto, sapendo naturalmente di perdere, nel Mugello contro Di Pietro, e lei ha attaccato con virulenza fresca e direi anche ingenua questo gran mostro, diciamo, di bravura nel contatto con l'opinione pubblica che è Di Pietro, tra l'altro il punto di sutura di tanti movimenti protestatari, insomma, del cosiddetto anti-berlusconismo. Insomma, Di Pietro c'è sempre in ogni piazza, in ogni posto, in ogni luogo dove si alimenta l'idea di un... Ecco, lei ha detto è leader di un partito fai da te, personale e personalistico, non c'entra nulla col centro-sinistra, e l'ha detta proprio lì, brutale, brutale. Beh, ma perché ne sono, allora, evidentemente convinta, ma mi dispiace però essere anche malintesa, nel senso sì, che io l'ho detto in pochi minuti, avendo appunto pochi minuti. Quello che intendevo dire è che ben venga l'opposizione, ma quell'opposizione, come viene fatto da Di Pietro, non deve appartenere, a mio avviso, al Partito Democratico. Noi dobbiamo essere un'opposizione di contenuti. Quella mi pare un'opposizione da contenitore, un po' come chi è dall'altra parte, insomma. Io non condivido quel modo di far politica. Bene, adesso allarghiamo, diciamo, la nostra chiacchierata anche ad altri, a Francesco Boccia, per esempio, che ha 41 anni, è deputato, dei nostri ospiti è quello che ha, diciamo, più esperienza e consistenza politica, è deputato del PD, è un giovane economista, è stato candidato contro Nichi Vendola alle primarie pugliesi e ha perso per un'incollatura. fa politica, è un duro, nelle interviste si vede che ama, diciamo, tagliare il suo pensiero con una certa nettezza, non è un politichese. Boccia, lei c'è, sì, al microfono. Sì, sì, buongiorno. Ecco, buongiorno. Allora, io vorrei a sorpresa farle sentire delle cose che ha detto, anche per cominciare a far interagire la nuova generazione politica che sta nel PD con i fatti. Allora, Berlusconi è certamente, insomma, uno può amarlo, può detestarlo, può essergli indifferente, ma non c'è dubbio che si è conquistato da 15-18 anni una specie di centralità, di primato, sia quando è stato al governo per 7 anni, sia quando è stato all'opposizione, insomma. Berlusconi è lì, è un incubo, un sogno, ma chi lo sa che cos'è Berlusconi? Certo è centrale. Allora, Vendola ha affrontato il problema in una intervista con la mia cara amica Rita Armeni su Rai 3 e ha detto una cosa abbastanza sorprendente o esplosiva, o forse neanche tanto sorprendente per chi conosce Vendola e la sua libertà di tono, però insomma, mi interessa sentire la sua reazione, non solo perché lei è stato lo storico avversario di Vendola in Puglia nelle primarie, avversario compagno allo stesso tempo, ma perché è interessante culturalmente capire come vi rapportate tutti voi al fenomeno Berlusconi. Sentiamo Vendola. Silvio Berlusconi è un individuo geniale, è una persona che ha veramente dei tratti strabilianti, il self-made man che riesce a costruire, come posso dire, un'intera epopea della vita culturale nazionale. È un prototipo di uomo nuovo che si è saputo imporre sulla scena italiana, e noi abbiamo fatto un errore tragico, quello di demonizzare il personaggio e di intenderne poco invece il meccanismo culturale di riproduzione del consenso. Berlusconi ha vinto, prima che nelle urne, ha vinto nei sogni e negli incubi degli italiani, ha plasmato la dimensione onirica, la gente ha cominciato a non avere più sogni collettivi, ma ha avuto sogni individuali, quello per esempio della figlia Velina, la gente non ha avuto più incubi collettivi, la guerra, la crisi ambientale, ma ha avuto incubi individuali, lo zingaro sul pianerottolo, e questa dimensione onirica è il segreto della egemonia, del successo berlusconiano. Linguaggio fiorito, indiretto, anche ellittico, così metaforico, però messaggio chiaro. Boccia, che ne pensa lei? Nicchi l'ha detto con il suo solito linguaggio, forzando su alcune cose. La verità è che Berlusconi ha vinto sul piano dell'idea di un modello culturale, e noi abbiamo perso perché non siamo stati in grado di far credere al paese che ci fosse un progetto collettivo. Quando non si crede in qualcosa ma si crede in qualcuno, in Italia da 10 anni a questa parte 12 vince Berlusconi, e le cose che dice Nicchi sono condivisibili. L'aggravante è che noi siamo finiti in una sorta di minoritarismo culturale dal quale non riusciamo ad uscire fuori. E guardi, la strada, l'unica strada, io lo ribadisco sempre, poi faccio politica da 4 anni, per me è una passione, mi ha fatto smontare la vita privata, perciò le cose che Deborah ha detto sabato erano musica, non solo per le mie orecchie, ma penso per milioni di militanti del PD. Le cose che diceva Deborah sono le cose che dicono tutti, ma non vengono dette da chi ha cambiato 4-5 partiti in questi 20 anni. Chi dice quelle cose ha un'idea d'Italia che è completamente diversa, non crede in una persona sola ma crede in un progetto politico, in una visione del paese diversa, e però questa cosa non è diventata patrimonio collettivo. Berlusconi vince perché dà un'idea del paese, può piacere o non può piacere, a noi non piace, ma la dà ed è chiara anche. è una visione che, come dire, non ammette neanche mediazione. Il rimprovero di fondo, Boccia, che fate a D'Alema, Veltroni, Marini, Rutelli, diciamo, potrei continuare con l'elencazione, ma forse anche coloro che sono stati ministri, che si sono succeduti nella nomenclatura, anche i più giovani, per esempio Enrico Letta, al quale lei è politicamente vicino, Bersani, cos'è che gli rimproverà? Perché c'è bisogno di un ricambio, a parte l'età? Ma guardi, io penso che incespicano? Oggi ci voglia il coraggio di sciogliere le ambiguità che Veltroni aveva affrontato a Lingotto, ma poi non ha sciolto durante la campagna elettorale, e diciamo il non aver sciolto quelle ambiguità sono diventati poi la sua fossa politica, e quelle ambiguità sono i motivi per i quali il Partito Democratico è nato. Glieli passo in rassegna: ma è mai possibile discutere sulla collocazione europea? Ma chi ha dubbi tra di noi, e io sono un ex Margherita, però, come dire, quando ho vissuto in Inghilterra non avevo nessun problema nell'essere iscritto al Partito Laburista, lo sono stato iscritto per 4 anni, poi sono tornato in Italia e mi ha spiegato i miei amici della Margherita: guarda, tu sei una sorta di ateo perché sei stato già iscritto inconsapevolmente al Partito Socialista Europeo. Per lei le nomenclature sono intercambiabili, però invece... No, ma chi ha dubbi in Italia? Chi ha dubbi? Glielo dico subito. Sulla nostra iscrizione al PSI. Glielo dico subito. Pierluigi Castagnetti, cattolico, ex popolare come Franceschini, erano un po' due gemelli politici, ha dichiarato, dice, ma gli ex DS fanno fatica a capire... Quelli che per noi sono passi da gigante, i passi in avanti sul testamento biologico, Castagnetti è cattolico, per loro sono passettini. Noi non abbiamo una tradizione socialdemocratica o comunista, non facciamo parte di un filone culturale, di quel filone culturale. Noi abbiamo due appartenenze, una alla Chiesa, l'altra alla politica. Per me, dice Castagnetti con grande candore, come per Franceschini, per tutti noi cattolici, insomma, il vero capo tra virgolette, è lui, il Papa. Per noi è il vicario di Dio in terra, e questo gli ex DS dovrebbero alla fine comprenderlo. Sarà un po' paradossale, ma è provocatorio, interessante. Castagnetti, io sono cattolico, ma penso che non sia così. Penso che la politica sia una cosa e la mia coscienza, la mia religione siano un'altra. Io sogno un partito autonomo dalle organizzazioni sindacali, ma anche dalle chiese, e sogno, mi batto per la neutralità etica dello Stato. Non ho nessun dubbio sul fatto che il Partito Democratico faccia riferimento al Partito Socialista Europeo, e se noi queste cose non le facciamo diventare la piattaforma politico-culturale con chiarezza e nettezza del PD, e noi non costruiremo mai un progetto politico alternativo a quello di Berlusconi. Ecco, sentiamo Civati su questo. Civati ha 33 anni, è consigliere regionale in Lombardia, ha una formazione di filosofo, e anche lui è un elemento di spicco, uno che si è fatto notare per le parole, per che ha detto, per le interviste che ha rilasciato, per il lavoro politico che ha fatto, insomma per la sua attitudine dentro il partito come uno dei nuovi, dei nuovissimi. Civati, la stupisce quella dichiarazione di Castagnetti sul fatto che, insomma, c'è chi ha due capi, uno Mi stupisce moltissimo, mi sembra un passo indietro di qualche secolo. Ci manca solo che esista una corrente Ratzinger all'interno del PD, diciamo, sarebbe l'ennesima e forse quella meno opportuna anche nei confronti di chi è cattolico, di chi si riferisce alla Chiesa in modo molto sincero. Ma per esempio, scusi Civati, non volete esercitare voi giovani un po' di fantasia? Non so, per esempio Obama ha detto: io Cristo me lo porto dietro nella politica. A volte quando parla sembra un pastore di una Black Church più che un politico laico. Non in tutto il mondo, anche Tony Blair non la pensa così, si crede nella neutralità etica della politica, invece se ne discute. Sì, certo, ci sono problemi, è ovvio, nessuno vuole una nuova teocrazia, però il problema della religione viene ridiscusso in termini nuovi. Lei non crede che sia necessario questo? Assolutamente sì, l'avrei citato personalmente Obama perché credo che la sua lettura sia quella più interessante negli ultimi anni, cioè la presenza potente della religione nella vita sociale, che anch'io riconosco, ma la necessità d'altra parte di un richiamo a quelli che Obama chiama valori costitutivi fondamentali della nostra comunità. Da noi sarebbe la Costituzione. Obama ha scritto delle pagine molto illuminanti, come giustamente ricordava lei. Io sono stato alla Trinity United Church del Southside di Chicago ad ascoltare una predica non del reverendo Wright, diciamo del suo successore, e ho ritrovato molta parte del linguaggio, dello stile, della retorica obamiana, però appunto con quella correzione, potremmo dire, comunque con quel completamento, con uno sguardo verso appunto quello che è previsto da una comunità politica che tutela le differenze, tutela le sensibilità sia di chi crede e di chi non crede. Del resto il Partito Democratico era nato per risolvere questo problema, per dare una lettura nuova, e su questo siamo assolutamente impegnati. Bene, adesso diamo la pubblicità e poi riprendiamo anche con gli ascoltatori che telefonano in tanti con molte curiosità, e li mettiamo così a reazione con i discorsi dei nostri ospiti. Nuove generazioni che cercano di farsi largo e di affermare un nuovo costume, una nuova visione, una nuova cultura delle cose, intanto nel Partito Democratico. 800 24 00 24. I nuovi dirigenti del PD, coloro che cercano di prenderlo in mano con tutto quello che questo significa, i figli dell'Ulivo. Oh, devo fare una piccola parentesi. Prima ho parlato bene di Curzio Maltese, che è il giornalista che li ha lanciati su Repubblica, quindi li ha dati in pasto a un'opinione molto larga, perché Repubblica è un giornale ovviamente molto letto. Ne ho parlato molto bene perché se lo merita, perché ha fatto una cosa encomiabile, perché ha inquadrato. È in corso però in un piccolo incidente, in questo articolo del 5 marzo, lui non lo sapeva che sarebbe in corso in questo incidente, perché Maltese è molto anti-berlusconiano, dice questi giovani finalmente faranno piazza pulita di questa tentazione del dialogo di Veltroni, eccetera. Dice che vuole dialogare con Berlusconi. Al massimo il Premier oggi ha bisogno di un'opposizione, scrive Maltese, che lo aiuti a far ingoiare all'opinione pubblica qualche raffica di nomine di basso livello alla RAI o negli enti pubblici. E hanno nominato Paolo Garimberti, che è una delle star di Repubblica, presidente della RAI, perché la politica italiana ha questa strana fantasia. Poi arriva una legge Gasparri, Repubblica si oppone alla legge Gasparri in modo da fondamentalisti, da veri talebani, una vergogna, una cosa. Per mesi, un'intera legislatura sulla Gasparri resta ancorata, eccetera. E poi, grazie alla Gasparri, uno di loro viene nominato presidente della RAI. Insomma, siamo un paese veramente molto strano. Gabriella da Roma e poi Mario da Milano. Gabriella. Pronto? Eccoci, prego. Dunque, proprio rispetto a questo argomento, dottor Ferrara, ieri sera guardavo Ballarò, ha parlato la Meloni, carina nel senso, la parte che è carina, ma diretta, la ministra della gioventù, svelta, no? Pronta, con un linguaggio vicino alle persone. Dopo ha parlato il Moro, ha parlato D'Alema, e non se ne può più, però attenzione, voglio allargare il ventaglio, anche Cicchitto, noioso, quindi non ne faccio una questione soltanto politica. Poi per esempio, dottor Ferrara, quel bel ragazzo che si è presentato per il partito per il PD a Firenze, come si chiama? Renzi, ecco, mi sfugge a questo momento. Matteo Renzi. Toscana. Renzi, simpatico, però anche lui c'ha quella puntina d'arroganza tipica della sinistra che ha stufato. Ha stufato, vede, Berlusconi con 1101 difetti, però ha un linguaggio che può piacere o non piacere, ma una cosa è certa, che rimane simpatico, tutto sommato, anche se dice delle cose che apparentemente sono contrarie al buon senso, non so, anche questa legge che a me tra l'altro fa comodo, no? Di allargare la casetta per i figli. Sì, ma tanto ha già fatto, guardi, non me ne parli, oggi ce l'ho con Berlusconi, ha già fatto una mezza marcia indietro, pare che la ritiri. Ha detto che il documento di cui abbiamo discusso ieri mattina qui alla radio con tutti quanti, gli arrivati, dice è falso. Ma come è falso? C'è la intestazione, Presidenza del Consiglio, i destinatari, i presidenti delle regioni. Non mi parli di Berlusconi, per favore, stamattina sono veramente arrabbiato. Persone che veramente parlano non solo al cuore ma anche al cervello delle persone. Basta con questi modi. Ho capito l'osservazione ed è molto, diciamo, nel contesto di ciò effettivamente di cui stiamo discutendo. Mario da Milano ha un'opinione diversa sulla gioventù in politica, che pretende le sue ragioni in politica. Mario. Sì, buongiorno Ferrara, lei e ai suoi ospiti. Io vado un po' controcorrente, sono sempre preoccupato di quando vedo dei non professionisti affacciarsi in un campo. Allora, delle persone che non sanno niente di politica a un certo punto entrano nell'agone politico e fanno delle cose. Io sono molto preoccupato, le faccio due esempi. Primo, quando Berlusconi è entrato in politica, era un dilettante e ha fatto tanti danni per questo. Quando Obama era lì per vincere, io ero molto preoccupato. Un dilettante che diventava presidente degli Stati Uniti mi spaventava e mi ha rasserenato il fatto di vederlo circondarsi di Clinton e di tecnici dello staff di Clinton, perché sì, a quel punto ho capito che sono quelli che hanno combinato i guai finanziari in cui il mondo adesso si trova, diciamo, perché alla fine degli anni 90 sono loro, i Summers, i Rubin, sì, però anche la, Clinton, insomma, l'amministrazione Bush che hanno deregolamentato, sì, anche l'amministrazione Bush ha deregolamentato parecchio. Vabbè, comunque lei non è, diciamo, lei non, mi pare che non è per le giovani marmotte, lei è per le vecchie volpi. Eh? Sì, ma comunque professionisti, gente che sa fare il proprio mestiere. Va bene, d'accordo. Rilancio la palla a Deborah Serracchiani, alla signora Serracchiani, alla quale chiedo, ecco, l'obiezione siete inesperti, abbassate un po' la cresta, se entrate in politica cercate di assimilare anche l'esperienza, la storia. Gli apparati non contengono soltanto è un'obiezione che esiste forte. Naturalmente poi c'era anche quel punto di vista dell'altra ascoltatrice che diceva beh no, ci vuole freschezza, perché sia a destra che a sinistra, D'Alema o Cicchitto, quelli che hanno troppa esperienza, che si sente il partito, l'appartenenza, l'esperienza nella prima, nella seconda repubblica non funzionano più. Che dice lei, Deborah? Ma guardi, partendo proprio dalla signora, mi dà la possibilità di dire una cosa. Quando dico che Matteo Renzi non mi appartiene, intendo dire non che non mi appartenga quel tipo di generazione o di modo di fare di politica, non mi appartiene appunto quel modo di dire la politica. Insomma, a me pare evidente come si dovrebbe parlare alle persone, sinceramente. Le persone sono stanche di sentire sempre giri di parole, dire ha detto questo, evidentemente voleva dire quest'altro. Io credo che le cose bisogna dirle direttamente, bisogna dire le cose come stanno, usando le parole che utilizzerebbe la signora che va al mercato la mattina. Ora, a me non piacciono le generalizzazioni, però dire che ci vogliono dei professionisti e che quindi i giovani sono degli inesperti mi sembra un po' come quando si cerca lavoro dopo aver magari due master, una laurea, eccetera. Sei al primo posto di lavoro, però ti dicono cerchiamo persone con esperienza, cioè c'è un curriculum tale, viene richiesto che minimo devi avere 160 anni per aver fatto tutte le cose che ti vengono richieste al primo posto di lavoro. Ora bisognerebbe essere un po' concreti. Però sulla sua osservazione di prima sul linguaggio, lei dice basta con la lingua di quella che i francesi chiamano la lingua di legno, la langue de bois, il gergo, no, della politica. Sì. D'accordo, questa è una questione cruciale, tant'è vero che secondo me il 90% del successo di Berlusconi è questa capacità di parlare come si parla al mercato, al bar, dire, disdire. Però Michele Serra, per dire, il moralista di Repubblica, il tenutario della Amaca, o altri, insomma, anche autorevoli, per esempio Nanni Moretti, intellettuali, persone curiose, interessanti del mondo della sinistra, le obietterebbero. Attenta, perché poi alla fine tu avalli l'idea molto berlusconiana che bisogna fare tutto un grande reality show, che bisogna, come dire, allora abbracciare populisticamente i modi, i linguaggi, le parole, il modo di sentire le cose della gente con due G e perdi di vista invece quella serietà, no? Perché tutte le battaglie poi, anche Franceschini, sono sempre le stesse, però la serietà al governo, noi siamo quelli seri, noi siamo quelli tutti d'un pezzo, noi siamo quelli integri, no? Non è pericoloso? No, noi siamo quelli che spesso appaiono lontani. Questo è quello che dico io, cioè a lei pare normale che ci sia un governo che pensa soltanto a quelli che possono oggi permettersi di vivere più che decorosamente, guardi per esempio il piano casa, adesso è diventato il piano casa delle mono e bifamiliari, quindi voglio dire di molta meno gente di quella che si pensi, ciò nonostante quelli che vivono con difficoltà votano Berlusconi. Allora io credo che si debba chiedere scusa a quelle persone lì, cioè se quelle persone lì la sinistra non riesce più a sentirle vicine, non riesce più a contattarle, il problema ce lo dobbiamo porre e dobbiamo anche smetterla di farci questa domanda, che cos'è, com'è Berlusconi, ci piace o non ci piace, a me, io condivido quello che ha detto Vendola, ma il problema è perché capire perché piace agli italiani, non perché non piace a noi. Con questa destra non si può dialogare su nulla. bisogna ripartire dai temi, dai valori. Questa è l'opinione di Francesco Boccia che abbiamo al microfono. Boccia, è sicuro di quello che ha detto nell'intervista a Curzio Maltese, cioè che non si può dialogare su nulla, perché vede, poi alla fine bisognerà pure farlo un presidente della RAI. La legge sul federalismo, il PD si è astenuto perché aveva un senso e ha un senso politico anche aprire questo dialogo di prospettiva con la Lega, con una componente della maggioranza, ma su tante altre questioni, la legge elettorale per le europee. I partiti sono fatti per poi dialogare, per stare nel palazzo, per avere un rapporto anche, lo dico senza infingimenti, di potere. Non è che voi, nuove generazioni politiche, da questo punto di vista peccate un po' di ingenuità? No, guardi, perché la sorprenderò, ma io sono tra quelli che sul federalismo non solo ha votato l'astensione, ma avrei votato sì, e ora le dico anche perché, e su altri temi. E sono abituato ad andare a vedere le carte e sui provvedimenti economici e io ho preso ormai atto, dopo 6 provvedimenti economici importanti, che Tremonti in realtà fa pura propaganda, aiuta in maniera molto chiara ed evidente alcune fasce, utilizza la disperazione e le difficoltà delle fasce sociali più deboli, ma ne aiuta altre, quindi assolutamente sono d'accordo con lei che le carte vanno sempre viste. Sul federalismo, se noi non fossimo intervenuti, non avessimo pesantemente messo le mani sul testo, noi oggi avremmo un disegno di legge che avrebbe previsto la perequazione delle regioni. Se la Calabria non ce l'avrebbe fatta, sarebbe intervenuto il Veneto, la Lombardia, questa era l'idea iniziale di Calderoli. Avremmo avuto un meccanismo che portava il paese ad avere 20 IRPEF diverse, avremmo avuto 20 scuole regionali in termini di organizzazione. Se oggi c'è la garanzia che ci sarà un solo modello organizzativo della scuola, se l'IRPEF non sarà più toccata, che è l'unica imposta redistributiva vera del paese, e se il Parlamento manterrà il controllo su quei decreti attuativi legati a questa delega, è perché il PD ha fatto un lavoraccio in questi 2 mesi e Calderoli intelligentemente ha capito che era meglio fare un negoziato sull'attuazione del titolo. Bene, bene, quindi insomma naturalmente c'è anche un criterio, poi è una razionalità. Si discute dentro le istituzioni, sui valori no, sui valori siamo profondamente lontani. Giuseppe Civati, formazione filosofo ma politico che conquista Monza al PD da segretario dei DS, è politico duro che dice porterò uno striscione alla prossima assemblea nazionale del mio partito e nel suo striscione ci scriverò occupiamoci di loro, non di noi. Sono insofferenti questi della nuova generazione politica diessina verso i riti, diciamo, di nomenclatura, cioè appunto l'idea che a gente nata nel 75 come Civati, a gente che appunto appartiene integralmente a una dimensione politica che viene dopo le vecchie rogne ideologiche del passato, venga imposto invece, e vogliono un'agenda agile, svelta, seria, concreta. Lei, Civati, ha detto è stata una brutta giornata quella in cui si è scelto di eleggere Dario Franceschini, perché dopo le dimissioni di Veltroni, perché lei voleva le primarie, voleva fare un po' la rivoluzione, invece così la nomenclatura ha deciso che era meglio fare una cosa più prudente, ci sono le europee, eccetera eccetera. Adesso il suo giudizio è cambiato su Franceschini dopo le prime prove? Ma il mio giudizio su Franceschini in realtà non è cambiato, nel senso che io sottolineavo la necessità di un confronto più vero, no? La sua elezione è avvenuta in poche ore, è stato quasi un blitz, diciamoci la verità. In 3 giorni è stata convocata l'Assemblea Nazionale, si è registrata la presenza solo di un terzo delle persone che ne facevano parte ed è stato eletto un segretario con toni drammatici, dicendo che chi voleva le primarie apriva le porte ad azzardi e a un pericolo di scioglimento addirittura del partito, tutte cose che io non condividevo. Franceschini ha delle grandissime responsabilità sulla situazione in cui viviamo dal punto di vista del dibattito politico interno. Lui era il vice segretario di Veltroni, per cui è un po' difficile dire no, era colpa di Walter, mentre Dario ce la può fare, non ha nessun tipo di appunto senso di colpa o di pentimento da esprimere rispetto alla fase che si è chiusa a febbraio. Adesso sta facendo delle cose, credo, molto molto utili, molto sagge, molto opportune, anche coraggiose, questa decisione sulla lista delle europee, che peraltro era anche il frutto di una nostra iniziativa, di un appello che con altri abbiamo scritto per chiedergli un rinnovamento, un ricambio, soprattutto un po' di serietà, che chi va in Europa non sia un Berlusclone, come è stato detto ieri, non sia cioè il ministro, l'assessore, il sindaco di turno che fa le due cose insieme o che punta ad altri incarichi e sta in Europa soltanto pro tempore. Per esempio, questa io l'ho ritenuto un'iniziativa molto importante da parte di Dario Franceschini, così come il sostegno ad esempio al referendum, all'accorpamento tra le elezioni europee amministrative e il referendum Avete paura dello spietato realismo di alcuni vecchi del partito, i quali dicono sì, vabbè, i giovani stanno premendo molto per questa storia, ma andiamo in Europa. Berlusconi invece si presenta lui in tutte le circoscrizioni e Franceschini lo critica, dice ah, è una truffa gli elettori. Sì, vabbè, ma insomma, però dicono questi vecchi realisti che ci sono anche dalle vostre parti, dicono ma se uno deve prendere i voti, deve mettere i candidati che portano i voti. Certo, ma è intanto discutibile la cosa, nel senso che molti giovani prendono tantissimi voti, guardi, glielo posso assicurare, hanno solo bisogno di essere un po' più conosciuti dal sistema, attraverso il sistema dei media e nell'opinione pubblica. Certamente noi non crediamo che si debbano fare solo liste di trentenni, nessuno l'ha mai sostenuto, noi crediamo che ci siano figure, tra l'altro anche tra gli uscenti, tra chi ha fatto seriamente il parlamentare europeo, io conosco Antonio Panzeri di Milano, ad esempio, che l'ha fatto con serietà, ci vuole una miscela tra le diverse cose, l'esperienza politica e qualche forma di novità, insomma, anche per aprire a quel linguaggio, ma non soltanto, perché non è solo un problema di comunicazione, è un problema di proposta politica, di un mondo che non è rappresentato dalla politica italiana, al di là di qualche ministro berlusconiano che però non credo che si possa definire portatore degli interessi di una generazione, sono figure molto particolari, molto rispettabili, ma da cui non mi sento assolutamente rappresentato. Marco da Genova che vi fa i complimenti e vi vuole bene. Pronto? Ecco. Sì, buongiorno a tutti, ai vostri ospiti e tutti. E niente, io sono, come dire, contento di questa ventata di novità. Scusate, ma ho un ritorno nelle orecchie. Io non faccio politica attiva, però mi interesso. Vedo che come me anche tanti altri coetanei, io ho 48 anni, ma ne ho avuti anche di meno, quindi seguo la politica da molto tempo. Questo è interessante, che lei abbia avuto meno di 48 anni, è una qualità. Sa cosa diceva Benedetto Croce dei giovani? Lo dico anche a Deborah Serracchiani, anzi direi che possiamo chiudere con un giudizio su questa frase. Benedetto Croce, vi farà orrore la sola citazione magari, Civati no perché è un filosofo e quindi tecnicamente deve riconoscere che ha avuto un ruolo nel Novecento italiano, il filosofo Benedetto Croce. Però il vecchio filosofo così un po' cinico eccetera, alla domanda su cosa dovessero fare i giovani rispondeva sempre devono invecchiare, questo è quello che devono fare i giovani, questo è il loro vero destino, ed è una battuta molto cinica. Lei cosa ne pensa, Marco? Beh, io sono senz'altro d'accordo e niente. Quindi ha molta fiducia sul fatto che invecchieranno bene questi giovani, ecco. Sì, senta, me lo auguro, lo auguro. Sentiamo Deborah perché stiamo ormai in chiusura. Deborah, Benedetto Croce. Beh, guardi, le belle citazioni non dovrebbero avere un colore, ma comunque... No, infatti no. Quello che posso dirle io è che questo partito qualche ruga ultimamente me l'ha fatta venire. Adesso se questo significa invecchiare bene o invecchiare non so dirglielo. Però credo che insomma bisognerebbe avere un po' più di fiducia nelle persone. Lei dice che bisogna parlare in modo diretto, non ipocrita, eccetera, spontaneo. Sono d'accordo. Allora, mi fa un piacere. Tutti dicono sempre, ma io sono al servizio del partito, al servizio di un ideale, al servizio. In un certo senso è anche vero, c'è un elemento di servizio pubblico. Però mi faccia una bella dichiarazione di ambizione. Qual è l'ambizione di Deborah Serracchiani? Vuole prenderlo in mano questo partito, lei, con una nuova generazione politica, per esercitare il potere e dare un'impronta nuova a questo paese? Potere, dico. Guardi, la mia ambizione, lo dico seriamente, è che la mia voce possa essere quella di tanti, tanti, tanti altri che la pensano come me. Se questo significa avere poi il potere in mano, lo vedremo tra un po'. Va bene, dichiarazione bella, anche un pochino minacciosa, io starei attento se fossi un nomenclato del PD. Mi pare che abbiamo concluso, vi ringrazio moltissimo, ci avete dato così spunti per riflettere diversi dal solito, grazie a Deborah Serracchiani, a Giuseppe Civati, a Francesco Boccia, un'ora è poca, ci voleva più tempo naturalmente per approfondire e dire tante altre cose belle e interessanti. Grazie però, grazie anche a Franca Fossati, Gloria Guerrera in redazione, ad Alessandro Chiappini e Valeria Bernardi in regia, linea al GR, poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Baci, a domani.